Il punto di Stefano Folli. In condizioni normali l'accordo sull'IMU sarebbe solo un passaggio tecnico nella vita di un governo, un semplice riequilibrio di bilancio, un riassetto fra entrate e uscite, e certo non sarebbe una priorità. Per come stanno le cose nella nostra coalizione invece si è trattato di una partita complessa, quasi titanica, tanto più che parliamo di un'alleanza, quella fra PD e PDL, che in apparenza è sempre sul punto di esplodere, quindi si giustifica l'esultanza del Premier Letta per il risultato ottenuto, che si aggiunge agli altri provvedimenti decisi sugli esodati, i precari della scuola, la cassa integrazione. Nel complesso nessuna di queste misure dà l'idea di una strategia economica lungimirante, piuttosto di un tamponare qui e là la situazione disponendo di risorse scarse. Tuttavia, dal punto di vista politico, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa per l'anno in corso è in effetti un evento straordinario. Come si può ora aprire una crisi sulla sentenza Mediaset dopo che proprio il PDL ritiene con ragione di aver vinto una battaglia cruciale sulla casa? Diciamo che non avrebbe senso, visto che la crisi manderebbe all'aria il provvedimento. Aspettiamo quindi i prossimi passi di Berlusconi, ben sapendo peraltro che la logica nella politica italiana non abbonda.